E oggi ovviamente parleremo della resistenza delle donne, la resistenza taciuta delle donne, che però taciuta tanto più non è negli ultimi anni, perché testimonianze e soprattutto da questa radio, da gruppi femministi e da tante partigiane che in giro raccontano le loro storie, insomma sono testimoniate. Sentiamo insieme delle testimonianze audio, dei racconti di queste donne, dalle staffette al rappresaglia del ponte di ferro, agli assalti ai forni, o anche dalle motivazioni che hanno portato tante donne a imbracciare le armi, non solo, anche insomma ad essere resistenti. Cominciamo quindi con le nostre testimonianze audio. La prima che vi faremo sentire è la partigiana Marisa Muso. L'8 settembre, cioè che è il giorno in cui praticamente è stato dichiarato l'armistizio, il governo Badoglio, che aveva ereditato due grossi bombardamenti, perlomeno il più grosso bombardamento di Roma, quello a San Lorenzo, eccetera, e poi subito dopo un altro anche abbastanza pesante, non sapendo che fare, fece una dichiarazione dichiarando Roma città aperta, cioè non ci sono armate, non ci sono armi, non ci sono depositarmi, non ci sono eserciti, non ci sono soldati, non c'è nulla. Poi abbiamo, diciamo, dal 9 settembre a Roma i tedeschi come unica forza organizzata, armata, che occupa la città, e repubblichini, cioè fascisti, che cominciano a tirarsi su, cominciano a chiedere le armi ai tedeschi e ad averle, cominciano ad aggirarsi per la città armati, a fare arresti, eccetera, però ancora, diciamo, a settembre non sono ancora organizzatissimi. Man mano che passarono i mesi ebbero non solo le armi, ma anche per esempio dei posti di tortura e in fondo anche delle carceri, perché una parte di Regina Coeli ospitò degli arrestati dai repubblichini, cioè dai fascisti. Cosa significa resistenza? Significa nascondere il partigiano che in quel momento è inseguito e aprirgli la porta di casa e mandarlo in cantina. A Roma un fenomeno ampissimo, del quale secondo me si parla troppo poco, che c'è stato praticamente in questa forma, in questa misura solo a Roma, di enorme diffusione per le strade dei chiodi a quattro punte. Allora, questi inchiodi a quattro punti venivano non solo fabbricati a Roma, nelle officine dei fabbri, eccetera, eccetera, ma venivano diffusi, cioè gettati per le strade, nascostamente ovviamente, da bambini, ragazzi, vecchi, cioè si sono riusciti a fermare moltissime autocolonne tedesche armate che andavano verso il fronte di Anzio, seminando i chiodi a quattro punte sulle vie consolari. Allora, anche questa è resistenza, i famosi assalti ai forni, cioè per un certo periodo che è durato su circa due mesi, e cioè fra la fine di marzo, aprile e maggio, parlo del 1944, si è andata diffondendo a Roma, e non solo nelle borgate, neanche nei quartieri di ceti medi, perché la fame c'era dappertutto, questa assalti ai forni, che sì, nascevano da una volontà spontanea delle donne di portare a casa un po' di più del pane che veniva dato con la tessera, 150 grammi erano troppo pochi a testa, ma venivano anche specialmente dalla volontà di fare una cosa che disturbasse i tedeschi. Durante uno di questi assalti ai forni i tedeschi hanno fucilato 10 donne su quello che oggi si chiama il ponte di ferro, cioè il ponte che dà su Viale Marconi, e lì hanno 10 donne che non sono riuscite a fuggire, sono state fucilate sull'argine del fiume. Oggi c'è soltanto una lapide donne che in fondo non possono essere viste come ladri di pane, perché non lo erano, erano donne che sapevano di fare delle azioni che sconvolgevano l'ordine teutonico tedesco della città. C'è stata poi accanto a questa una lotta armata, c'erano a Roma forze, gruppi armati, partigiani che lavoravano e facevano azioni ottime, che ebbero dei risultati molto forti contro i tedeschi, eccetera. Gli armati, diciamo, i gruppi armati di Bandiera Rossa, i gruppi armati del Partito d'Azione, cioè c'era un e i gruppi armati del Partito Comunista. La formazione dei gruppi di azione patriottica a Roma, cioè dei GAP, è avvenuta quasi spontaneamente all'inizio dell'occupazione, quando nelle varie zone militari, cioè quartieri, insieme di quartieri, nei quali si era stata divisa dal comando militare dei partiti antifascisti la città, si sono cominciati a fare le prime azioni militari. Erano delle azioni più che altro talvolta a caso, nel senso che si usava la pistola che un ufficiale italiano fuggendo aveva lasciato, si erano recuperate delle armi nei forti militari che erano stati abbandonati, ma molto spesso chi usava queste armi nei quartieri erano giovani o giovani uomini in genere che o erano stati sotto le armi e in quel momento per ragioni varie erano tornati a casa, oppure ragazzi che non avevano mai usato delle armi. Quindi queste prime azioni sono delle azioni spontanee, sporadiche, si uccide magari per la strada il tedesco che sta facendo una prepotenza, oppure si cerca di impedire che l'arresto di alcuni in una casa, ma sono azioni quanto mai casuali. Si buttano le prime bombe a mano che si sono trovate contro i camion che passano, i camion armati tedeschi che passano, eccetera. I GAP centrali cominciarono fin dall'inizio a fare delle azioni che erano appunto indicate o suggerite dal comando militare della città. Così nasce per esempio anche Via Rasella, cioè dal fatto che si vede passare sempre alla stessa ora, nella stessa strada, un gruppo armato consistente di tedeschi, oppure l'azione per assaltare un corteo di fascisti che escono da una manifestazione al cinema Adriano, cioè al centro, una serie di azioni, oppure bombe messe in un posto, non so, per esempio sia alla stazione Termini che davanti al cinema Barberino, dove c'erano due grossi posti di ristoro per soldati tedeschi, cioè tutte azioni che miravano a sottolineare il fatto che a Roma c'erano numerosi i tedeschi e che quindi non era una città aperta. Scrisse Ada Gobetti: nella resistenza la donna fu presente ovunque, sul campo di battaglia come sul luogo di lavoro, nel chiuso della prigione come nella piazza o nell'intimità della casa. Non vi fu attività, lotta, organizzazione, collaborazione a cui ella non partecipasse, come una spola in un continuo movimento, costruiva e teneva insieme, muovendo instancabile il tessuto sotterraneo della guerra partigiana. La prossima testimonianza audio che andiamo a sentire è di Ida, la voce di Ida Camanzi, una staffetta partigiana il cui nome di battaglia era Ilonka, che ci ha lasciato 3-4 anni fa. E lei diceva: mio padre era un comunista convinto e colto che aveva frequentato fino alla sesta elementare, e l'antifascismo è cresciuto con me perché mio padre ci ha sempre insegnato a distinguere il giusto dal sopruso. Dunque, quando è nata la resistenza, noi ci siamo trovati pronti. Mi chiamo Ida Camanzi, sono nata il 29 maggio del 1924 a Sant'Agata sul Santerno ed ho partecipato alla guerra di liberazione con il nome di Ilonk. Avevo i gradi di sottotenente del servizio di informazioni. Mi mandarono a chiamare e fui assunta dal comando della brigata, dal comando nella brigata 28esima dei GAP della provincia di Ravenna, con la mansione di staffetta militare, con l'operazione diretta, perché normalmente le partigiane facevano un po' il lavoro a ragnatele, un lavoro come a ragnatele, cioè facevano 14-15 chilometri e poi dopo depositavano e lì partiva un'altra staffetta e andava così. Invece io ero diretta nelle questioni urgenti, dovevo arrivare, e presi questa responsabilità e mi sono data veramente da fare. Io e mia sorella Nilde siamo le uniche due che siamo state all'isola degli Spinaroni, dove si preparava la liberazione di Ravenna. Io sono entrata alla sfilata uno per uno quando abbiamo liberato Ravenna. Io sono entrata in testa alla colonna dei partigiani. E poi, perché noi donne avevamo anche delle rivendicazioni, cioè il voto, il lavoro, il diritto al lavoro. Per esempio, io mi ricordo che quando andavo a scuola io, bene, ho fatto solo la quarta, ma le donne potevano fare solo l'insegnamento, al massimo diventavano professoresse, ma di dottor, di quello che c'è, non ce n'erano, come non c'erano delle donne militari prima di noi. Le prime staffette siamo noi, le prime donne militari siamo noi, staffette partigiane iscritte al distretto. Considero, per esempio, il fascio faceva sempre la guerra. Io in 20 anni, dal 24 al 44, che sono 20 anni precisi, no? Dalla mia vita, 4 guerre. A un bel momento, tutta sta miseria, tutto sto poco lavoro, tutta sta rinuncia. Io, per esempio, la lotta che dovevo per andare al cinema la domenica, avere 10 soldi per andare al cinema la domenica, no? Che lavoravi sempre. Questo ti ponevi anche dei problemi, da dire, ma che vita è questa? È così. Era che era come come si dice, un sottavento, una quiete, ma che quando esplosa, guarda, i contadini e gli operai erano i più preparati, i più disponibili. Aver vissuto in questo periodo e non ne aver partecipato mi sarebbe dispiaciuto da morire. E lei era la partigiana Ida Camanzi. La staffetta partigiana molte volte è stato sottovalutato questo ruolo, ma è estremamente pericoloso. prossimo contributo audio che andiamo a sentire invece è preso dal documentario Bandite di Alessa Proietti e parla, è brevissimo, parla di Valchiria Terratura, una partigiana combattente di Gubbio nella quinta brigata Garibaldi di Pesaro, battaglione Pani, che è decorata con medaglia d'argento al valor militare. In pugno sempre, e naturalmente i primi tempi con una gran paura, quando mettevo la pallottola in canna sia nella pistola o mettevo innestavo le caricature nel mitra, c'era un po' di timore. Chiunque veniva preso con un'arma veniva fucilato sul posto, clandestinamente, con molta fatica, è toccato molte volte anche a me recuperarle e portarle in montagna. Mi hanno subito riconosciuto il titolo di ispettore organizzativo, perché ero quella che portava più armi, ho portato più armi di tutti. Quando chiedevano volontari per andare in un'azione, quando una o due donne si offrivano volontari, ci guardavano molto sospetto, ma sai, voi forse non siete all'altezza della situazione, beh, provate, dicevamo noi altri. E poi dopo alla fine erano loro stessi, ma all'inizio era logico che, siccome erano vissuti sempre con l'idea che la donna stesse a casa a fare il ricamo, il cazzetto e a fare il brodo, era logico che ci avessero qualche diffidenza, no? Quando vedevamo, pensavamo di sparare contro gente anche giovane, magari dell'anno che vedevamo sui camion della nostra stessa età, beh, c'era un certo apatema, perché uccidere un essere umano ormai non era nelle nostre corde, mentre quando le loro ci prendevano, magari ci torturavano, ci facevano una fette, invece noi no, noi avevamo un altro sentimento nei loro riguardi, cioè, abbiamo combattuto, specie noi, con cuore di donna. A 7:46 minuti siete all'ascolto del martedì autogestito da femministe lesbiche. Stiamo ascoltando le voci delle donne che hanno partecipato alla resistenza. Moltissime di queste donne purtroppo non ci sono più, e anche la prossima che andiamo a sentire è scomparsa pochi due anni fa. Si chiama Luigina Donati, una partigiana, il suo nome di battaglia era Ivana, lei era una staffetta della Brigata Garibaldi Leone Borrini. È stata rintracciata, pensate, solamente nel 2005 ed è stata intervistata all'interno di un film che si intitola La Collina Rossa, voci della resistenza, e qui c'è un piccolissimo estratto che noi ci andiamo ad ascoltare. Di tutte le cose che abbiamo fatto, anche sul ponte lì di Villafranca, c'erano i tedeschi e ogni volta che si passava ci chiedevano: no, andiamo dalla zia, dici, dove andate? Ce n'era uno in cima al ponte di qua e uno in cima al ponte di là, e prima di passare ti chiedevano dove andavi, cosa facevi, cosa c'hai nella borsa, però non eravamo mica cretine di far vedere a loro cosa avevamo, lavavamo anche le scarpe, quelle cose che dovevamo consegnare, hai capito com'è? E un giorno con mio cognato Francesco, quando era libero, che era giù, perché ogni tanto veniva a vedere la famiglia com'era, no? E siamo andati per legna, siamo scesi giù su una stradina che il muretto era tutto di ciotole, tutti per il masso ciotole erano. E ci siamo fatti un bel fascio di legna, torniamo su col nostro fascio, a un certo momento incontriamo Edoardo. Oh Francesco, Gigia, ci levamo il nostro fascio di legna e lo mettiamo sopra a questo muretto. E allora si mettono a parlare, no? E parlano degli attacchi, delle carovane che passano, le munizioni, che insomma, a un certo momento, su compagni in gran partito, noi siamo dei lavoratori, una fede in cuore c'è scolpita, una fede c'è nata in cuore, sull'ottiamo l'ideale nostra alfine sarà l'internazionale, futura umanità. Sembrava che aveva tutti con, ma tutti gioiosi, questo Edoardo, anche lui. Non te lo so dire, come era contento quel momento a cantare, ma piano, perché poco lontano c'era Filetto, ma la nostra voce non è che andava fino là, ma era bellissimo, bello, bello anche lì, è stato bello, bello. Thank you. Thank you very much. And hello. And then I teach you my to the suicide. Down to my grave. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Onorina Brambilla, detta Nori, nome di battaglia Sandra, diceva che la partecipazione delle donne alla resistenza fu dovuta principalmente a motivazioni personali, a differenza di molti uomini che scelsero di andare in montagna per sottrarsi all'arruolamento dell'esercito di Salò. Nessun obbligo militare costringeva le donne a una scelta di parte, potevano starsene a casa, insomma. La resistenza fu anche un'occasione per affermare quei diritti che non avevano mai avuto. You know, sometimes... Paradossalmente, con la guerra si crearono le condizioni di una libertà personale mai sperimentata prima. Molte di noi con la resistenza si guadagnarono la loro autonomia. Most of the time all I have is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let la resistenza delle donne continua in varie parti del mondo. Ne abbiamo parlato spesso da questi microfoni, della resistenza delle donne curde. Tra poco ci andremo ad ascoltare l'intervento di Narsel Kilic del Movimento Internazionale delle Donne Curde alla conferenza esclusiva delle giuriste in Kurdistan. I have faults like anyone. Sometimes I think I'll spend the rest of my life regretting some simple thing that I have done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh, oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood.